quando l'aratro dell'età i nostri visi segnerà coi lunghi solchi che vi avrà scavato. I nostri figli grandi ormai saranno andati via di qui per aumentare in fondo a noi il vuoto. Quando ogni gesto nascerà più lento nell'intimità per tutto il tempo che sarà passato. Parlarti allora non sarà pensare a quello che verrà, ma ricordare tutto ciò che è stato. Passi lenti tu verrai con me per via di Diazzale, senza avvenire con le idee più chiare. Non sarà facile però, malgrado quello che dirò, negare il tempo che non può tornare. Quando la nostra vita in due progetti nuovi non avrà, avremo un libro da poter aprire. Memorie scritte insieme a te, senza concluderle perché solo il finale mancherà ancora. Quando il mio tempo sfiorerà la soglia dell'eternità e qualche cosa mi dirà ci siamo. Quando guardandoti vedrò che senza il nostro amore no, non avrai più quei giorni tuoi di prima. Quando più calmo sembrerò e la tua mano cercherò perché il mio polso batterà più piano. Dopo aver accettato Dio, prima di andarmene lo so, un'altra volta se potrò io ti dirò come un addio. Yeah.